Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute che ci porta alla giornata di domani e che riprende la rubrica Altri Suoni come ogni martedì. Angelica, gli incontri, la musica, la capacità di interagire e di conoscere, avere possibilità variegate all'interno di un mondo musicale e non solo, che portano un'attenzione, non dico diversa, ma decisamente superiore per quanto riguarda la sensibilità di approccio musicale in diverse applicazioni. Siamo al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, domani sera alle ore 18, scusate, l'incontro Risonanze Molteplici, incontro con Rocco Quaglia, Nicola Cisternino, Marina Baccarini e Mario Baroni. Leopoldo Siano sarà moderatore. Presentazione, attenzione, delle pubblicazioni dal grande musicista Luigi Nono, Caminante di Nicola Cisternino, Silvano Bussotti, Respirando Appagato di Maddalena Novati e Marina Vaccarini, Bruno Maderna, La musica e la vita di Mario Baroni e Rossana Dal Monte. Questo, come vi dicevo, oltre che la musica, il motivo di incontro. Alle 19.30 un flautista, un compositore, Eric Lamb dagli Stati Uniti d'America, progetto Caminantes, Bruno Maderna, musica su due dimensioni per flauto, elettronica e nastro magnetico. A tale proposito ho selezionato questo brano, Scrivo in vento, ma per le esecuzioni che do in anticipazione in questo last minute, Luciano Berrio, sequenza 1 per flauto, Giacinto Scelsi, Puil per flauto, Nicola Cisternino, Muni per flauto basso, Giacinto Scelsi, Always e Luigi Nono, omaggio al grande Emilio Vedova per nastro magnetico. Si conclude con Silvano Bussotti e la ricerca va oltretutto al field recording, alla registrazione, Cardellino, Cinciallegra, Ciaffolotto e Cormorano. Come vi ho detto, lo sguardo che dà musica ovunque e comunque e in ogni essere vivente, come vi ho appena elencato. Del resto, quale miglior musica se non quella degli uccelli che vi ho appena citato, dal Cardellino alla Cinciallegra. Eric Lamb sarà al flauto basso e ovviamente alla struttura elettronica. Le musiche interpretate di Maderna, di Berio, di Giacinto Scelsi, di Nicola Cisternino, Luigi Nono e Silvano Bussotti. Domani dalle ore 19.30, dopo l'incontro delle 18, Risonanze Molteplici. Alle ore 19.30, Eric Lamb, Caminantes. Scrivo in vento, ascoltiamo qualche nota e poi torniamo in diretta. Thank you. Domani quindi Angelica per l'incontro Risonanze Molteplici al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Angelica è il live di Eric Lamb, di cui stiamo ancora ascoltando, sto tenendo come base questa espressione musicale che tra l'altro con l'intersezione del posto magico diventerà veramente un volo, in questo caso con l'interpretazione di grandissimi compositori. 18 Risonanze Molteplici, 19:30, Eric Lamb, flautista dagli Stati Uniti d'America, progetto Caminantes. Questo per un nuovo appuntamento di Angelica. A proposito della rubrica Altri Suoni e a proposito di un imprevedibile martedì, prima colazione in diretta che sta volgendo verso il termine, io metto un brano di Andrew Hill, che è sempre cosa buona e giusta, prima di portarvi i miei saluti. Grande Andrew Hill con questo brano Penthouse Party alle 8:49 minuti e 53 secondi che scoccano in questo momento. Io vi do appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina Libri a colazione. Ribadisco l'appuntamento di domani dalle ore 18 in via San Vitale 63 al Teatro San Leonardo, Centro di Ricerca Musicale per Angelica. Il Voltiamo Pagina Libri a colazione dalle 8 con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, anticipato dall'Incipit. Ora, per quanto riguarda il palinsesto di Radio Città Fujiko, l'Edipeo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi Rassegna Stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e dalle 10:30 alle 12:30 il Vinile Quotidiano, doppio appuntamento in vinile con Andrea Gozza, che vi aspetta per la grande musica sui 103.1. Grazie a tutte e a tutti per l'attenzione, dal vostro William Piana, la prima colazione in diretta è domani puntuale alle ore 7. Un buon ascolto.